YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche il perdibile della settimana tra TV, Web TV, Social TV. Daniele, di cosa parliamo questa settimana? Un sacco di cose. Sì, è la stagione dei palinsesti, poi parliamo di musica, poi parliamo dei mondiali e alla fine, anche se io non so di che cosa parliamo, però parliamo genericamente di amore, nuovo amore 2.0. Amore 2.0, mi piace. No, posso dire gli account? Sì, dai, vediamo se te allora, li ricordi. Allora, Marta Cagnola, li leggo, Marta Cagnola, et di Bellasio, l'hashtag RadioTube. Sai che ho messo su Danton un fuori onda nostro? Hai messo... Stupendo, quello dove mi sgridi, dove dici anche una parolaccina. Dico una parolaccina? Mi sgridi perché io stavo facendo le prove e su Danton si può... E tu stavi facendo un po' no, io ti stupidino? No, ho messo in mezzo che eravamo corti, vabbè, insomma, vabbè, niente, me l'andrò ad ascoltare sul tuo blog, Sole 24 Ore. Danton, Marta, hai detto palinsesti? Divertente. Sì, palinsesti, la stagione dei palinsesti. Perché abbiamo parlato dei palinsesti di Mediaset, dei palinsesti Rai. Dobbiamo concludere con i palinsesti delle grandi TV generaliste, perché invece di Sky parleremo a settembre. Certo. Perché questa è la stagione in cui le grandi reti generaliste primi di luglio presentano i palinsesti, mentre ormai è una tradizione che Sky lo faccia dopo. Quindi siamo così per la par condicio. La 7, quindi... La 7. Beh, la 7 e l'annuncio è stato quello più atteso, uno solo. Sì, noi sapeva già. Si sapeva già, anche però, perché... Però è diventato... Hanno cercato di dire, è vero, non è vero, è vero, non è vero. Ecco l'annuncio di Urbano Cairo in conferenza stampa. Sono ben felice di poter dire che Giovanni Floris è con noi, è una grande... È un grande acquisto per noi, acquisto si fa per dire, insomma, ma è un grande giornalista, un grande personaggio che quindi può dare certamente un arricchimento ad un palinsesto già molto ricco di La 7. Eccolo qua l'annuncio di Urbano Cairo, che poi così ha spiegato ai giornalisti a margine dopo la conferenza stampa. Un contratto di lunghissimo periodo per fare due cose fondamentalmente. Una cosa, un programma il martedì sera di approfondimento e di attualità dalle 9:15 fino a mezzanotte, poi una striscia quotidiana alle 8:20 fino a poco prima del telegiornale, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Flori sta lavorando ad una serie di cose innovative, per cui assolutamente non è nessuna copia, c'è da parte di Floris e da parte nostra la volontà di fare qualcosa di nuovo, di innovativo. Eccolo qua Urbano Cairo con questo annuncio. Vabbè, non è stata la grande sorpresa perché era già filtrato, anche se Mentana aveva detto non è ancora ufficiale. Poi lui dice acquisto perché è presidente del Torino anche, quindi è un po'... quindi è un po' calcistico. E poi ha fatto praticamente una squadra, 10, 11, tutti sull'informazione, Formini, Vignardi, Santoro, Mentana, poi le donne che Mirta fanno Merlino, la staffetta, Giulia Innocenzi. Sì, io tifosissima di Mirta, io tifo sempre Mirta, che piace. Ma dice, qualcuno dice sono troppa informazione. Tu che dici, Marta? Ma io penso che comunque la 7 alla fine in questo modo riesca ad avere un palinsesto all star senza dei costi di produzione enormi, che e è con l'unica cosa molto definita. Molto definita. Una scorpacciata per chi ama particolarmente i talk. Io non credo di riuscire a vederne uno tutte le sere. Ma litigheranno un po' le star tra di loro di questa informazione? Il primo dubbio che abbiamo avuto tutti è stato: ma Enrico Mentana, come l'ha presa? Come l'ha presa? Noi vogliamo grande, tantissimo bene Enrico Mentana, che rivorremmo tantissimo su Twitter, sì, lo diciamo sempre quanto lo vorremmo, però c'è stato l'imprimatur, la bolla papale, sai? Cioè? Certo, l'ha detto al TG. Ha invitato Giovanni Floris, Giova è andato in studio, che voleva dire... Io, Enrico Mentana, cioè proprio la benedizione. Cioè ha conquistato, ha detto ma io qua cambierei due cosine. No, è entrato timidamente e Mentana gli ha detto entra pure, che questa è la cosa. Cioè, e così ha parlato in particolare di questa fascia quotidiana, che era anche un po' l'oggetto del contender in Rai, ci teneva molto. Ecco come ne hanno parlato in studio al TG La 7 Enrico Mentana e Giovanni Floris. Beh, innanzitutto è andata bene, perché vengo a farlo in una rete di cui ho grande stima, professionale, seria, onesta, quindi... Un grandissimo telegiornale. Con un telegiornale fuori dal normale, ma sono veramente felice. perché questo è un progetto che avevo, ci credo molto, sono contento di aver trovato persone che ci credono. Io ritengo che in un momento come questo analizzare le notizie per quello che sono in maniera molto scarna, con molto breve tempo, tanto più prima di un TG che poi ti fa avere il quadro più completo, secondo me è un progetto che funziona. Ho trovato chi ci crede ed è una bella rete, sono felice di venirci a lavorare senza nulla togliere alla RAI, cui devo tutto nella mia carriera, ho passato 20 anni solo là, facendo tutto alla RAI e tutto grazie alla RAI, persino la scuola di giornalismo dove ho studiato è della RAI. Quindi sono molto contento di come è andata a finire e sono molto contento di quello che potremo fare. Non farò la mia solita polemica sulle scuole di giornalismo, che non devono esserci in Italia scuole di giornalismo aziendali, basta, l'ho detto, non voglio fare polemica. Ultima notazione, perché poi tra poco abbiamo quell'appuntamento che a te che stai facendo la patente per la moto piace molto. Arriva Simona Ventura sulla 7. Pure, per con Miss Italia, ecco, lo sapevo, ero preparato. Ti sarebbe piaciuto moltissimo. Una sera con Miss Italia, aspirano al 10%, li aspettiamo. YouTube. Rieccoci insieme dopo aver parlato delle novità della 7, parliamo dell'evento social, sportivo, televisivo, chi più ne ha più ne metta della settimana. E beh, insomma, è stato un momento storico. A proposito di 7, dalla 7 a un bel 7 a 1. Dalla 7 al 7 a 1, vabbè, entriamo in atmosfera con un po' di musica. So che ti piace tanto. Lontano dalla grande mela. Tra un po' non l'ascolteremo più, te lo prometto. Perché ci ha accompagnato, doveva accompagnare delle emozioni un po' diverse. Poi vabbè, l'Italia è uscita, i mondiali li abbiamo guardati lo stesso, ma soprattutto siamo riusciti comunque a divertirci grazie alla Germania. Vabbè, insomma, siamo a un passo dalle due finali, soprattutto. Cioè, beh, dalla, la finale è una. Dalla sì, l'altra. Non so neanche perché la gioco. Io sarei per abolirmi, terzo o quarto posto. Secondo me è interessante guardarla per vedere come, come viene fuori il Brasile dopo il 7 dopo il 7 nei pantaloni che gli ha fatto la Germania. Anzi, cominciamo a sentire un pezzettino di quello che è andato in onda qualche giorno fa, così per ricordarci. Pallone sul secondo palo e Germania subito in vantaggio con il solito Thomas Müller, 1-0. Passa Toni Kroos, si prepara il tiro, c'è una grande conclusione, Müller ancora in area di rigore, la lascia lì, Klose! Miro Klose, 2-0 per la Germania, porta chiusa in faccia al Brasile, record storico di gol nel campionato del mondo per Miro Klose, nessuno mai nella storia come lui. Una sola squadra in campo, l'apertura per Philipp Lahm, la mette ancora in mezzo Müller, la manca, 3-0 in 24 minuti, 3-0 in 24 minuti, Germania spaventosa. Beh, insomma, questo era solo il 3-0, cioè era solo l'inizio, erano solo i primi 20 minuti. L'aperitivo. Sì, proprio allora. I preliminari. Un risultato così mai successo in semifinale in mondiali. Miroslav Klose è diventato l'attaccante più prolifico della storia della competizione iridata, superando Ronaldo. È stato però soprattutto della Lazio, visto che tu sei un po' filo romanista. No, vabbè, ma tanto non importa, vabbè, quando ci sono i mondiali, non stiamo lì a vedere quanti giocano in finale dell'Inter, così, non importa. Ma soprattutto è stato l'evento più sportivo più discusso nella storia di Twitter, aspetta che ti dico il numero, 35,6 milioni di messaggi, dei quali i miei sono stati moltissimi perché io mi sono divertita tanto. Ma soprattutto è stata la telecronaca più discussa sui social network della storia, quella di Caressa e Bergomi. A un certo punto Caressa e Bergomi non sapevano assolutamente più cosa dire. No, Ma il problema è che più l'evento diventava storico, più quelli volavano. Vabbè, cioè, io chiederei subito un'opinione, non che la tua o la mia non no, sia la mia non conta perché sul noi del... sul calcio, siamo guarda, proprio... essendo interista, una questione di fede. Non ma vorrei un'opinione di quelle proprio motivazioni autorevoli. È appena tornato, ma mi sono emozionata quando è tornato. È stato un po' di più della nostra squadra nazionale, diciamo. Beh sì, un po' di più. Però buona... è il nostro azzurro. Buonasera Dario Ricci. Grazie per la convocazione in nazionale. Buonasera sì, a tutti. Sì, no, ragazzi. Tu sei, anche se lo devo dire, quando sei arrivato a Radio 24 avevi una maglietta del Camerun. Eh sì, è vero, sì. Una maglietta I love football, I love Camerun. Sì, sì. Perché comunque sono simpatici, dai. Insomma, le notazioni importanti dei colleghi radiofonici sono che tu avevi la maglietta del Camerun. Dario, voglio chiederti cosa è subito... successo, diciamo, spiegaci più o meno cosa è successo. Senti, no, voglio intanto sapere, visto che abbiamo parlato di questa telecronaca folle, se tu l'hai seguita su Sky o sulla Rai e cosa ne pensavi, anche perché... A me veniva un po' l'ansia per loro, perché io so benissimo com'è la sensazione di quando sei in onda e devi raccontare una roba che poi non sai più come raccontare perché non c'è proprio più ma niente da dire. Ma hai commentato un 7-1 ai mondiali? Ma guarda, di più, Dario. Ma guarda, no, la mia scelta è sempre stata per Sky, durante il mondiale, anche appena tornato, ho fatto subito il pass mondiale perché insomma mi piace di più il ritmo frizzante delle varie coppie, ecco, che si alternano. Detto questo, è chiaro che quello di Caress e Bergomi è diventato veramente un tourmalet da scalare, visto che siamo anche in tempi di Tour de France, perché stavamo vedendo assistendo a uno spettacolo calcistico assolutamente impensabile alla vigilia, no? Abbiamo visto proprio Marta, Daniele, in questi giorni si dice che qualcuno avesse scommesso su questo risultato, addirittura immaginando un gol di Khedira. Secondo me è un fake. Perché, beh, dai, sì, anche perché pare che abbia vinto tipo 200 milioni di euro. Una cifra, secondo me, era finto. Dai, era un fotomontaggio. Cioè, se è vero, questo ha veramente un'immaginazione. Se è vero, è Scolari, diciamo. No, vabbè, no, partisco. Ancora una palla persa. Dentro ancora il pallone. Che dirà dentro Toni Kroos. 4-0. Non ho mai visto nella mia vita una semifinale così, e ne ho viste tantissime dal 1970. Prova a uscire Hummels, dentro ancora il pallone, che dira, un buco continuo, che dira, apre Özil, dentro ancora, semi, che dira, 5-0, questi non si fermano, potremo assistere alla più grande sconfitta, e forse già la più grande sconfitta della storia del calcio brasiliano. Chi dirà? Lamma cerca il pallone dentro, 6-0, Schürrle, 6-0, e che hai vinto 6-0 in Brasile contro il Brasile, lo racconti ai nipoti, ai pronipoti, per generazioni e generazioni. Sì, perché poi lì è arrivato anche il momento bambini brasiliani che piangevano, sì. È successo di tutto. No, io devo dire che Dario, sul ritmo hai ragione, però a volte forse non c'è il rischio che la telecronaca di fronte a un evento che è storico di per sé risulti un po' eccessiva, cioè essendo già l'evento storico non c'è bisogno che la telecronaca sia mitologica. Beh, quello può essere anche vero, Daniele. Non ci dimentichiamo però anche le logiche della Pay TV, che appunto sono nella ragione sociale, insomma, comunque è un prodotto che viene venduto, quindi diciamo nel dubbio ci si mette sempre quell'eccesso d'enfasi, no? Cioè conta la sceneggiatura? Sì, perché in effetti comunque probabilmente si sa che quel prodotto viene venduto meglio se ci si mette l'iperbole, se ci si mette il più di enfasi, e poi comunque quello che si stava vedendo in campo effettivamente o ti portava a rimanere senza parole oppure a metterne magari una di più, perché era assolutamente... Vi faccio notare tra l'altro che questa storia dei bambini che hanno pianto, e tanti ne abbiamo visti, no? Il bambino di Robben. Il bambino di Robben, sì. Ecco, sì, ma soprattutto nel caso dei brasiliani, è strettamente legato anche al fatto che c'era uno spot di una compagnia telefonica, tra l'altro molto bello, sulle TV brasiliane, in cui venivano coinvolti tutti i bambini nati dopo il 2002, cioè dopo l'ultima vittoria del Mondiale del Brasile. Quindi in questo spot questi bambini cantavano l'inno e chiedevano alla nazionale di vincere, perché loro non avevano mai visto vincere il Brasile una Coppa del Mondo. Quindi si è creato questo parallelismo tra questi bambini che anelavano dal vedere il primo successo del Brasile in una Coppa del Mondo e invece le lacrime che invece si ritrovano adesso sul gruppone. Vabbè, come per noi prima dell'ultimo mondiale, che era un po' un discrimine chi aveva visto vincere l'82 e chi non l'aveva visto. Infatti. Torno ancora un po' di numeri, visto che abbiamo citato Robben, il bambino di Robben, Olanda-Argentina, beh, anche qui si è guadagnato un sacco di tweet, 14,2 milioni di messaggi. E tornando ancora a Sky, è andato molto bene l'hashtag Sky Mondiali con 250.000 tweet, è stato il primo tra quelli creati dai brand italiani per commentare la Coppa del Mondo, il terzo hashtag più utilizzato in Italia. Dai, finiamo con i gol, andiamo a vedere sentiamoli tutti gli ultimi. Müller dentro, Ovedes la mette giù, poi cerca il tiro e 7-0 di Schürrle. 7-0 di Schürrle. 7-0. Oscar ne ha dato nessuno, Neuer, Oscar. 7-1. Vabbè, saluto anche i colleghi della Rai, perché abbiamo parlato solo di Sky e non voglio essere così ingiusta, perché poi in questi mondiali abbiamo un po' bacchettati i colleghi della Vabbè, Rai. Ma c'è un pochino, pubblico, sì. C'è un passeggero per ogni treno. Sì. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiedere a Dario. Dario, cosa ti sei portato in valigia come esperienza? Belle le domande romantiche della Cagnola. Sempre. Ma no, ma dai, è vero, quando torni da un'esperienza del genere... Beh, sicuramente intanto un sogno olimpico, perché poi il Brasile fra 2 anni con Rio ospiterà le Olimpiadi e quindi ti viene già la curiosità di tornarci per vedere come le cose saranno cambiate, e tra l'altro saranno Olimpiadi col marchio Rai, quindi ci sarà tutta la possibilità per la TV di Stato di rifarsi, e già ho visto che stanno lavorando, hanno già organizzato dei set eccetera eccetera. E poi devo dire soprattutto il senso di un paradiso amaro, perché effettivamente in Brasile vedi delle cose straordinarie e vedi anche delle cose che non vorresti vedere, quindi ti rimane dentro questa contraddizione, questo dolce amaro di questi due sapori così differenti e distinti. Vedi, definizione, poi, un paradiso amaro, vedi, perfetto, il perché, titolo della trasmissione perché di oggi. Dario Ricci è intanto, vabbè, l'umanità di Dario, poi lui lo sa che io lo adoro, quindi vi lascio soli se volete. No, guarda, sono anche amica della moglie, quindi stiamo tranquilli, sì. Diciamolo agli ascoltatori, soprattutto all'ascoltatrice moglie. ecco, ciao Laura. No, poi soprattutto il vero giornalista che dice per la prima cosa ti era... La voglia del prossimo. La voglia del prossimo. Perché quello è. Prossimo evento. Le emozioni, le cose. Cosa ti è rimasto dentro? La voglia di ripartire. Ma Dario, che squadra tiene? Si può dire, no? Si può dire. Non lo so se lo vuoi sapere, sai, però. Sì, si può dire perché. Anche questo è bello. No, nel senso che tu lo puoi dire, però. Vabbè, no, ma a me io sono laico, Dimmi, Dario. Diglielo. No, io sono juventino, sono un diversamente juventino, nel senso con diversamente alcune... juventino, ecco perché ti invitiamo, se no eri escluso. hai capito perché l'ho detto. Dario, noi ti aspettiamo anche in studio prima della fine della stagione di RadioTube, ti vogliamo abbracciare anche in studio. Assolutamente, anch'io vi verrò e ci abbracceremo tutti. Grazie Dario, grazie a Dario Ricci, grazie a presto, voi. Buona serata. YouTube. Rieccoci insieme per la seconda parte del nostro RadioTube, una puntata in cui, Daniele, non parliamo di politica mai. per non una abbiamo volta... mai parlato di politica. No, finora. E non ne parleremo perché adesso in questo come blocco mai? No, non, perché non è successo è vacanza, niente. Non è successo niente. In questo blocco parliamo di musica. Io sì. ho scoperto un nuovo rocker, mi piace molto, mi piace molto la sua energia, cioè, dopo mi essere piace stata molto... ai Rolling Stones ti sei buttata sì, sui giovani. Sì, sì, sui giovani, certo, la sua energia, la sua si è esibito alla festa del PD di Casa Albertone. Giuro. No, beh, scherzi, dai. No, no, Casa no. Albertone. Casa Albertone. Sì. Al microfono. Ma la festa che adesso si chiama dell'Unità, parliamo un po' di politica. È tornata a chiamarsi l'Unità. Non ce la puoi fare, vuoi sempre parlare di politica. Al microfono della karaoke rock bike di Radio Rock, amici romani di Radio Rock, bravissimi. Si è esibito per la prima volta. Cosa ha cantato? In Highway to Hell, un grandi dai, diciamolo che è questo mio nuovo rocker preferito, Pierluigi Bersani, eccolo qui. Highway to Hell, vai onorevole, con tutta la voce. Highway to Hell. Ecco, via. Highway to Hell. Highway to Hell. Grande. Non è lui. Si impegna, eh? Ma avesse cantato prima avrebbe vinto le elezioni. Cosa che l'ho pensato anch'io. Operazione simpatia, secondo me, altro che Giaguaro. Doveva cantare. Lui tirava su le maniche, no? Le arrotolava e via di heavy metal. Vedi, te l'ho detto, mio nuovo rocker preferito. C'è qualcuno in studio con noi che sta ridendo sotto i baffi che non ha. Che non aveva visto il che video. Non l'aveva visto, adesso finalmente l'ha sentito. Il nostro rocker del Sole 24 Ore. Buonasera Mauro Meazza. Sì, buonasera a voi, buonasera a tutti. E anche a Pierluigi Bersani. Sì, fa anche il responsabile del lunedì del Sole 24 Ore, sennò sembra vabbè che... ma come secondo lavoro, come primo lavoro è il rocker sì, del certo, quotidiano vabbè. Chapter perché... 11 nel cuore e sì, il lunedì sì, li abbiamo mente. Già ospitati a Radio Tube perché sono il nostro grande gruppo, lo diciamo, di pop tributario sì, del il gruppo Sole del 24 gruppo, Ore diciamo. Grazie, ma grazie. Questa volta non ti facciamo parlare per una volta dei Chapter 11 ma di un altro esordiente. Sì, e nemmeno del quadro RV, come si chiama? RW. No, RW, nemmeno di quello. Neanche di quello, no, ma no, di... quello in altre trasmissioni sì. di Radio 24, nella nostra no. Di un altro esordiente, anche qui vi regalo qualche nota. Quando cammino su queste dannate luole, vedo le cose che sfuggono dalla mia mente. Niente dura e questo lo sai. Però non ti ci abitui mai. Quando cammino in questa valle di lacrime. E beh, non è un esordiente questo, questo è uno piuttosto bravo, piuttosto noto, un certo Vasco Rossi. Io ero il 9. Lo sapevo. No, tu dove eri il 9? Io il 9 ero a Parigi, sono andata a un altro concerto, ma a Parigi come sono chic, ma Vasco Mauro. Bisogna andare. Io purtroppo non ero lì il 9, ma diciamo che... Col cuore. Sì, col cuore sempre tanto Vasco. Tanto siamo sempre in zona San Siro noi. Vasco, quindi. Sempre Vasco, assolutamente. Daniele, come mai hai detto di Vasco Rossi deve parlare Mauro Meazza? No, perché l'altro giorno in redazione parlavamo perché ti piace, perché non ti piace. Lui ha una tesi filologica molto molto interessante, perché Vasco Rossi è molto noto per le proprie canzoni che sono degli inni, per il suo ruolo sociale, io sostengo, perché lui riesce a incanalare, diciamo così... la stanchezza e la rabbia del vivere verso il rock, verso una reazione di speranza piuttosto che di ribellione un po' sì. fine a se stessa. Però a parte l'aspetto sociale, a parte le sue canzoni, Mauro ha una teoria fantastica. No, la teoria è la seguente. Io come indegno portavoce dei milioni di fans di Vasco, e sottolineerei l'indegno, sostengo che Vasco è il vero rocker, e purtroppo per lui è nato in Italia, è nato nella provincia italiana, perché se fosse nato in un qualsiasi stato americano probabilmente avrebbe invaso il mondo intero con il suo approccio. Spiegavo a Daniele, appunto chiacchierando in redazione, che secondo me Vasco è assolutamente genuino, cioè quello che porta sul palco è tutto se stesso, anche a costo di pagare di persona. Non si può dire questo di tutti i cantanti, secondo me. Non voglio fare paragoni, però credo che gli ascoltatori possano capire. Altri sono più, come posso dire, furbi o attenti a tenere una parte di se stessi fuori dal palco. Così non credo di Vasco. E poi un'altra cosa, adoro certe cover fatte da Vasco di canzoni di altri. Trovo che lui abbia capito lo spirito delle canzoni, magari portando all'estremo un lato, come non so, amico fragile di De André, generale di De Gregori. Ecco, ne abbia tirato fuori un'anima particolare che solo lui era in grado di interpretare. Scusate, mi sono lasciato trasportare, ma... No, è giusto. Belle, belle, giusto. I fan che ma si poi lasciano dei record pazzeschi, sì, Marta, mi sono tu che adori i numeri. Mi sono presa un po' di numeri che ci hanno mandato. Da 25 anni, sempre solo sold out dappertutto negli stadi, con il 10 luglio 21 volte a San Siro, gli ultimi 7 concerti, 7 eventi, con per un totale di 403.000 fan. Mi piacciono i numeri perché dicono tante cose, però ragazzi, la svolta metal, allora io vi devo far parlare di questa svolta metal, perché tu non eri convintissimo, poi mi devi dire cosa ne pensi, però intanto vorrei farvi sentire cosa ne pensa, come sempre, i bambini un attimo lontani dalla radio, perché è un altro che dice le parolacce. Però lui, ma lui è il più vero rocker cattivo italiano, e non so se lo conoscete bene, se non lo conoscete vi perdete qualcosa. Pino Scotto. Opinion leader, provocatore unico e straordinario, ma soprattutto l'unico che ha fatto il rock cattivo per tutta la vita e fa dei video, e gli hanno chiesto cosa pensa della svolta metal. Ecco, cosa pensa della svolta metal di Vasco, Pino Scotto. Tanto come al solito, per te che fra un po' vengono a rompermi i coglioni, come al solito. È chiaro. Mentre mangio. Cena con Pino! Oggi parliamo di Vasco Rossi. Allora, Vasco, io già so di cosa mi vuoi chiedere, lo so già. Vasco Rossi torna in tournée. La notizia che rimbalza sui social network è: Vasco Rossi, la svolta dal rock al heavy metal. A parte, secondo me, a parte che già la parola rock per Vasco Rossi già è un'offesa al rock and roll, veramente. A Vasco, ma che te devo da dire? Ti voglio bene, e comunque rispetto a Cimabue tu comunque sei molto più rock. Beh, devo dire che Cimabue, però, per chi conosce Pino Scotto, e vedo Paolo in regia che sorride, è stato buonissimo. Sì, ha detto solo una parolaccia. Cioè, no, beh, io un po' le ho tagliate perché questo era un video durante una cena trasmessa in Mondovisione, questa è la definizione. Certo. Prima di chiedervi però cosa pensate che di poi Mondovisione svolta... è il tour di Cimabue, no? Sì, di Cimabue, di questa svolta metal di Vasco Rossi. Vorrei farvi sentire un clippino realizzato dalla pagina Facebook La Svolta Metal di Vasco Rossi. Hanno montato gli audio dei clippini per fingere una risposta di Vasco. Ma dove le trovi certe cose? Ma sei un mito. Io ho riso per minuti. Anche questo l'ho dovuto un po' ridurre perché va avanti per il primo minuto sempre allo stesso modo. Ma sentite. No, volevo dire una cosa. Dunque, insomma, io voglio dire, perché parli sempre? Perché non è un invito a fumare, è ovvio che il vizio del fumo fa male. Se lei mi droga, non ti piace. Io, guarda, un giorno uno mi disse: non mi piacciono le tue canzoni. Guarda, mi hai dato lo stesso fastidio come se mi avessi detto che non ti piace la mia droga. Sai che cazzo mi frega. Questo video va avanti per 2 minuti con tutti gli Vasco è bellissimo. Sì, però è estrapolato dal contesto. Estrapolato. Per lui è sempre politica, estrapolato dal... Ma dai, Vasco. Dai, parliamo di questa svolta metal. La vostra critica musicale più legittima. No, voglio sapere legittima. Da te, da fan, visto che tu... Confessalo, mi hai detto il giorno prima... Ero preoccupato di non riconoscere le canzoni, perché se tu vai lì e poi dopo parte confondi la combriccola del Blasco con Siamo solo noi, perché la svolta... Ero preoccupata di non riconoscere le canzoni. Esatto. Mauro, come la commenti questa affermazione? Però io capisco molto, sono molto vicino a Daniele in questa posizione, perché per noi fan, mi accomuno anch'io, il poter cantare con Vasco è una parte determinante dei suoi concerti, quindi se non comprendiamo subito dove dobbiamo attaccare, poi il comandante ci mette in difficoltà. Non potete fare il coro. No, adeguato. Però la capacità di rinnovarsi così, questo sicuramente è straordinario, anche perché comunque per riempire uno stadio non è cosa da poco, e farlo innovando è ancora meglio. Cioè, non ha cantato delle canzoni storiche, bollicine, e invece ne ha cantate altre, tipo La Strega, in versioni rivoluzionarie davvero, quindi comunque capace di voltare pagina anche con se stessa. Beh, lui poi ha avuto questo, ma tutti i fan lo sanno, insomma, questo cambiamento nel passaggio, insomma, nella frattura con Solieri, cioè il suo storico chitarrista. Che... Sì, anche perché appunto questa cosa ha anche diviso i fan, perché... Sì, sì. Perché sono quelle amicizie, quelle collaborazioni che parlano molto dell'umanità di un artista, e quando succede qualcosa i fan si... Sembrava una simbiosi tra l'altro indissolubile quella tra Solieri e Vasco, e invece appunto c'è stata questa frattura, credo oramai siano quasi un paio d'anni, e appunto il cambiamento... Tra l'altro anche su Facebook hanno litigato. Il cambiamento della chitarra, insomma, in Vasco Rossi non è un dettaglio. Adesso io non voglio entrare nella discussione se sia rock o non sia rock. No, perché io stavo pensando... No, a un possibile cambiamento della chitarra nei Chapter 11. Esatto, andrà... impossibile. Francamente impossibile. Questo non lo so, ci dobbiamo ragionare sopra. So che adesso suona con una chitarra ritmica a 7 corde, lo dico per gli strimpellatori come me. Le 7 corde, di cui la settima è quella più bassa, quindi si aggiunge una corda bassa. Poi naturalmente bisogna ricordarsi che non si aggiunge un dito, perciò bisogna anche che l'abilità segua. Tra l'altro Vasco ha parlato di questo 7, che ritorna, ha detto che lui è nato il 7 di febbraio, sì. Ha fatto 7 eventi quest'anno straordinari, tutti sold out, e 7 sono i peccati capitali, è per questo che ha scelto. E 7 sono le corde della chitarra. E 7 le corde della chitarra, bellissimo. Beh, poi 7 peccati capitali, io penso che lui li abbia... Ma gli interessa come argomento teologico, diciamo, capito? Forse l'acidia magari non è cosa sua. Ecco. Un'ultima notazione, così approfitto del fatto che tu sia appunto anche un collega del Sole 24 Ore, anche Daniele, ma lui non lo considero. Grazie. Visto che... È bello perché c'è stima in studio. Sì, no, sì, molto. Sì, cioè, sì, stima, sì, reciproca, amore, flirtiamo, radiotubiamo, diverso. In tempi difficili, l'energia che tira fuori Vasco, secondo te, cosa può darci? Parecchio, secondo me, perché se lui riesce a incanalare nelle sue canzoni, nei suoi ritornelli, specialmente, che sono degli slogan talvolta bellissimi, duraturi, eccetera, se riesce a incanalare una sorta di energia positiva, di voglia di riscatto, di voglia di comunque battersi, questo secondo me ci può aiutare. Ci sono delle canzoni, tu lo sai Marta, che tu ascolti e decidi che non puoi più vivere senza quella canzone, allora o te la compri o te la scarichi o senti o te la cerchi continuamente sulla radio, la impari a memoria, o in rete, la impari ovviamente a memoria. Ecco, secondo me Vasco Rossi è un produttore di grande importanza di questo tipo di canzoni, e allora l'energia che lui riesce a dare quando non prende invece la sua vena più malinconica, questa ci può dare effettivamente una scossa. Grazie a Mauro Meazza per essere stato con noi. Noi aspettiamo anche la nuova stagione, così dei da chapter. Settembre, esatto, sì. Per poi vi diremo le date, insomma, il tour e... il rock tributario fanno negli stadi, dall'heavy metal, negli stadi vedremo, comunque vorrei dire con venature anche giuslavoristiche. Perfetto. Grazie Mauro Meazza. Daniele, abbi un attimo di pazienza, sì. Perché Mauro Meazza vuole dire una cosa, lo dice lui. La dico io. Traffico! Radio Tube. Come vola il tempo quando ci si diverte e soprattutto quando ci si ritrova per parlare d'amore. Ma era come vola o come passa il tempo? Passa che ogni tanto dico vola, però tanto il senso è quello. Ci divertiamo, poi parliamo un po' d'amore. Sì, parliamo io sono contento dell'ospite che abbiamo, però non so di cosa parliamo. Ma come sempre, perché io quando dobbiamo parlare di queste cose non ti dico nulla. No, allora intanto voglio farti ascoltare, voglio farti sentire qualche secondo di uno straordinario video realizzato da Brett Domino. Ha creato le regole per fare una canzone di successo. Io guardo anche Paolo Corleone in regia, poi mi dirai se secondo te gli ingredienti sono quelli giusti. Allora, intanto, vabbè, è in inglese, quindi ve ne faccio sentire qualche secondo e ve la racconto. Hi, I'm Brett Domino and this is my quick guide to making a hit pop song. Step 1, instrumental hook. First up, you need a memorable instrumental hook that's gonna get stuck in people's heads. Jason Derulo's pretty good at doing this kind of thing. He often has a tootle on a trumpet or saxophone in his songs. Like, there's that one that goes. Allora, questo Brett Domino spiega le regole. La prima è, come avete sentito, fare un inizio strumentale, magari con uno strumento a fiato, lui dice un po' come Jason Derulo, per dare il senso, no, il ritmo. Poi dice, bisogna trovare delle, delle parole sexy. Allora lui googla parole sexy e trova il titolo della canzone che è You Look Sexy When You Do That. Poi dice, no, allora io mi devo ispirare a una donna sexy. Allora googla donna sexy e gli viene fuori Jennifer Lawrence. E lui con questi ingredienti tira fuori una canzone e dice, io ho tirato fuori una hit song. Ma varrà anche per gli articoli, scrivere gli articoli ma così. Secondo me sì, senti la canzone che ha tirato fuori Brad Domino, You Look Sexy. Ah, perché poi l'ha fatta. Certo, secondo me è perfetta, potrebbe essere davvero una grande hit. I like it when you eat ghetto. I like it when you wear that shade of Bordeaux. I like the way you hold your bow, 'cause baby, you look sexy when you do that. Cioè, è perfetta, è bravo, dice Paolo. Quindi se qualcuno vuole fare una hit, ecco qua. Bene. Però io ho detto che avremmo parlato d'amore, perché lui, allora il testo lui sì. ha googlato in realtà più sexy. Sì, sì. Però in questi giorni si parla tanto d'amore, d'amore in rete. Si parla tanto d'amore in questi giorni. Sì, perché è uscito un pezzo che a me è piaciuto moltissimo, che ci spinge ad abbandonare forse una cattiva abitudine che molti di noi abbiamo. Io lo negherò fino alla morte. Ma io mi collego subito con un'amica di RadioTube, una delle nostre giornaliste preferite. Buonasera Costanza Rizzacasa d'Orsogna, Costanza. Ciao, RadioTubeiamo insieme. Che meraviglia, guarda, io già impazzisco. Ti abbiamo citato prima. Sì, ti abbiamo citato, sì, abbiamo detto che RadioTubeiamo. Costanza, tu sei il mago del colonnino amoroso, perché sul Corriere della Sera il colonnino amoroso è impagabile, imperdibile. Daniele, quando tu incontri una donna, una femmina, della quale non sai nulla, ma ogni tanto succede, della quale non sai nulla, tu resisti o googli o cerchi cose? Ma no, ma figurati se cerco cose. Dopo molto. Mi è capitato non troppo tempo fa, devo dire che la frequento ancora, cioè ci parliamo ancora, parliamo, e non era da nessuna parte. Oppure come quando tu conosci uno e dice, Costanza, come ti chiami? Mario Rossi? Anche se Google Perciò le immagini. Allora, Costanza, qual è secondo te il segreto alla soluzione? Va fatto o non va fatto? Allora, c'era uno studio qualche mese fa che diceva appunto come Google è la nostra ormai memoria esterna. Ieri, per esempio, leggevo sul Daily Mail una roba che diceva che i teenager preferiscono googlare un sintomo piuttosto che andare dal dottore a vedere cosa hanno. La battuta chiaramente era come solo i teenager, perché lo facciamo tutti, perché lo facciamo senza rendercene conto. Google è la nostra memoria esterna, non solo ha preso il posto del circoletto di amici che avevamo quando ci piaceva uno, allora volevamo sapere tutto di lui, volevamo sapere informazioni, allora c'era sguinzagliavamo l'amica a chiedere, poi c'era quella che aveva il fratello che lui lo aveva in classe, allora ti diceva tutto e quindi Google ormai è una cosa che facciamo senza rendercene conto, e di più è come se noi non incameriamo le informazioni ricevute ma dobbiamo sempre andare a ricercare Carle, così non siamo più capaci di parlare di un uomo senza googlare quell'uomo, e poi lo googliamo e lo googliamo ancora perché non incameriamo le informazioni ottenute. E però, diceva il New York Magazine, su questo avevo basato insomma quel colonnino amoroso che poi viene sempre allungato per la 27ª ora, che in realtà quindi, visto che siamo così dipendenti dal googlare, la nuova castità, la castità 2.0, è il non googlare. Cosa succede? Che i teenager si sono accorti che è molto più figo non cercare una persona su Twitter, su Google prima di incontrarla, perché toglie tutta l'eccitazione, perché poi alla fine quando la incontri e il momento dell'incontro è sempre più ritardato, visto che in realtà le relazioni oggi prima si formano sui social, allora si sono accorti che è molto più eccitante, quindi è una specie di nuovo appuntamento al buio. Alla fine si googla soltanto quando ci sentiamo pronti. Beh, io devo dire che non solo googlo, ma io uso anche la Wayback Machine. Spiega bene per la gente a casa. Sì, cioè quel sito che praticamente fa delle foto dei siti del passato che non esistono più. Ah, questo è bellissimo. E quindi io vado anche a trovare, non so, i vecchi blog che sono stati chiusi, perché così controllo. Ah sì, io ne ho chiuso uno. Sei andato a controllare. Adesso vado a controllare. Adesso si chiama uguale all'attuale. Allora lo va, ma straordinario. Allora questa sera mentre guardo la partita mi faccio un giro di web. No, però è molto interessante. Ma secondo te, Costanza, alla fine, grazie a questi strumenti, conosciamo di più o di meno le persone? Perché io per esempio ho la sensazione di conoscerle di più, però invece c'è chi dice troppo rumore, alla fine ci conosciamo di meno. Ti dirò, secondo me è proprio il contrario, alla fine ci conosciamo di meno, primo per la superficialità dei mezzi e poi perché su Google c'è di tutto e sta a noi capire quali sono le informazioni vere e quali false. E l'onere è veramente troppo grande. Come facciamo a capire, prima di conoscere veramente una persona, se quello che viene scritto su Google è vero o falso? Su Google anche il più piccolo difetto viene amplificato. Se tu avessi saputo che il ragazzo che stai andando a incontrare c'aveva i mutandoni con età beta, avresti voluto incontrarlo? Probabilmente no, perché ti sembrava uno sfigato. Invece se tu l'hai già conosciuto e poi scopri per caso questa cosina che lui da ragazzo, insomma, c'aveva questa fissa per i mutandoni di età beta, rimetti tutto in prospettiva e così in realtà Google ci impedisce, diceva appunto il New York Magazine, di costruire delle relazioni che invece potrebbero essere la relazione. Ma ci sono anche altri problemi, perché per esempio confusi da sexting e app di casual sex geolocalizzato, le donne non sanno più neanche riconoscere cosa sia l'appuntamento amoroso. Era un sondaggio apparso giorni fa su Glamour USA che diceva appunto che il 74-75% delle donne non sa più cosa sia l'appuntamento amoroso, perché di fatto tutto comincia molto prima sui social. E infatti proprio per sopperire a questo hanno dichiarato il 28 giugno la giornata nazionale, perché negli Stati Uniti, dell'appuntamento, per costringere la gente, per spingere la gente a uscire. Allora ragazzi, purtroppo il nostro tempo è finito. Per questa settimana ringraziamo gli ascoltatori, ringraziamo Costanza che è stata con noi. A presto, a Costanza Rizza, grazie. Casa d'Orsogna. Ciao, grazie. Salutiamo anche Paolo Corleoni in regia. Noi ci ritroviamo, sì, la prossima settimana. Io saluto Vasco con Radio Tube. Ciao.